Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 0024. Il mondo alla rovescia, la realtà con i piedi in aria e la testa ficcata in terra. In un liceo della periferia di Milano, tra l'altro un liceo molto decoroso dove si fanno le cose seriamente, si chiama Liceo Omero, il bullismo ha contagiato gli insegnanti, ma insomma adesso questo magari è un giudizio un po' sprezzante, un po' troppo sarcastico, però insomma sì, c'è stata una rissa, uno scontro, si sono spintonati, si sono picchiati, insomma uno è finito al pronto soccorso, eccetera. Due insegnanti, quello di filosofia e quello di scienze, il contrasto tra la filosofia e la scienza d'altra parte è antico, nel cortile del liceo davanti agli studenti, i quali naturalmente hanno subito approfittato per prendere, come si può dire, il tono, magari un po' con qualche venatura da maestrini, diciamo, dello scandalizzato, dicendo ma come sarebbe, eccetera. Vabbè, adesso ovviamente non è questa la condizione dell'istruzione in Italia, però sono piccoli episodi. I motivi dello scontro, della rissa, erano voci, dicerie sul modo in cui l'uno insegna e l'altro difende e tutela gli studenti dal cattivo insegnante. Insomma, questo però, questo clima sul quale verrà fatto un accertamento con gli ispettori del Ministero e sul quale spero ci sia anche poi un recupero sul piano umano, perché la gente non deve essere condannata e messa alla berlina magari per un errore, per un momento di nervosismo, dimostra simbolicamente una fragilità persistente del sistema dell'istruzione, che però adesso risse nel cortile di un liceo a parte è dimostrata da ben altri dati drammatici, di cui parleremo tra poco, che riguardano proprio l'istruzione al suo massimo livello, l'ultimo livello di istruzione, il pezzo di carta col quale poi si dovrebbe entrare nel mercato del lavoro qualificati, la laurea. Noi stiamo messi male, secondo i dati di Eurostat, cioè dello strumento di rilevazione statistica ufficiale europeo, che ha appunto recentemente fatto capire che da noi, e questo è il punto fondamentale, la mobilità sociale è impacciata, anzi paralizzata, e noi siamo agli ultimi posti come capacità di produrre formazione, istruzione, cultura, ricerca. Perché? Perché soltanto chi è figlio di laureato, insomma in grande maggioranza chi è figlio di laureato, chi è figlio di persone già istruite, arriva a quello stadio. Per gli altri c'è un divario rispetto ai nostri paesi, ai paesi europei con i quali siamo, diciamo, insieme in competizione e cooperazione, c'è un forte divario proprio di mobilità sociale, insomma, mentre gli altri fanno laureare anche i figli di chi ha meno istruzione, di chi ha un reddito inferiore, noi siamo ancora una società un po' arcaica, dove l'università non riesce a eguagliare le condizioni e le opportunità e le condizioni di partenza delle persone. Sono cose serie, ne parliamo con Maria Stella Gelmini, che è ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che sta per si accinge a riformare l'università e dunque anche il mondo della ricerca, con Giorgio Israel, che è professore di matematica a Roma e ha scritto ieri sul Messaggero un bellissimo editoriale su come si deve insegnare e come non si deve insegnare, e Chiara Saraceno, professore di sociologia della famiglia alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino e ricercatrice a Berlino. 800 24 0024, la prima domanda ovviamente è per il ministro Gelmini. Prima di parlare del suo progetto di legge, che tra qualche giorno porterà al Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento, e che deve essere calibrato per evitare, sulle questioni che riguardano la professione di docente universitario, naturalmente in Parlamento, dove ce ne sono tanti, nascono sempre dei gran problemi, ci sono molti conflitti di interesse, però la prima domanda è su questa roba dell'Eurostat. Insomma, abbiamo letto ieri con raccapriccio che siamo un paese incapace di dare una base uguale o pressoché uguale di partenza agli italiani, ai cittadini, ai figli di questo paese per istruirsi, per formarsi e per avere una laurea. Perché? Beh, in effetti devo dire che non è la prima volta che viene pubblicata una ricerca attorno allo stato di salute dell'università e i dati che ci vengono forniti non sono particolarmente brillanti, perché questi dati Eurostat mettono in evidenza un forte gap di laureati del nostro paese rispetto alla media europea. Noi abbiamo circa 19 laureati su 100, quando in Europa la media è del 30%, addirittura alcuni paesi come la Finlandia, la Francia, l'Inghilterra 40%. Sono intorno al 40%. Ma il dato che deve fare più riflettere è la perdita di capacità dell'università, in parte anche della scuola superiore, di fungere da ascensore sociale. Cioè, il nostro è un paese che per anni si è illuso di essere fortemente egualitario. Oggi però scopriamo che il figlio dell'operaio continua a fare l'operaio, così come il figlio del medico fa il medico, e la scuola e nemmeno l'università riescono a migliorare le condizioni sociali ed economiche lavorative degli studenti, dei ragazzi. E questo è un dato, secondo me, fortemente preoccupante. Incide molto di più la famiglia di provenienza sulla carriera di un giovane rispetto al titolo di studio. Tra l'altro mi permetto di suggerire il fatto che non è solo una questione, diciamo, astratta di giustizia sociale che stiamo discutendo, che bisogna naturalmente che l'ascensore sociale funzioni, certo, perché tutti devono avere gli stessi diritti di partenza e lo Stato, l'istruzione sta lì apposta per cercare di garantire questo, o dovrebbe. Il problema è che c'è un rapporto tra questo dato, la disparità sociale, sì, diciamo, i profili sociali che restano sempre gli stessi, come lei diceva, il figlio del medico che fa il medico, il figlio dell'operaio che fa l'operaio, e il dato generale, cioè siamo, certo, un paese con meno laureati. Complessivamente, cioè, poi sì, alla fine ci si perde nel calcolo, no? Nel calcolo. È vero. E un altro problema che abbiamo è anche legato nella scuola superiore alla dispersione scolastica, nel senso che molti ragazzi intraprendono un indirizzo di studio e poi non lo completano, e anche devo dire la dispersione a livello universitario è molto alta. E penso che noi dobbiamo certamente riflettere su questo dato, ma anche sul tipo di offerta formativa, perché nel tempo, per esempio, il numero degli iscritti all'università è andato lievemente calando, così come anche il numero dei laureati. E allora questo, secondo me, deve farci ripensare l'offerta formativa. Io non so se forse 5.500... Come fanno a calare gli iscritti all'università quando alcune decine di milioni di italiani frequentano i corsi di scienze delle comunicazioni, che è una facoltà che io chiuderei con i carabinieri, diciamo. Infatti, che sono le scienze delle comunicazioni? Sì, non si capisce soprattutto poi che tipo di occupazione possa garantire. Sì. Scienza della disoccupazione, non della comunicazione. E io penso che noi dobbiamo intanto ragionare attorno alla quantità di offerta formativa. Io non so se la quantità sia sinonimo di qualità e di necessità. E credo che un elemento che sia fortemente assente nel nostro paese sia un collegamento fra il mondo universitario e il mondo del lavoro. Perché alla fine una famiglia che si sobbarca i costi, i sacrifici di mantenere un figlio all'università e questo figlio poi si laurea, quella laurea è garanzia di una occupazione. Poi qualcuno può dire sì, però c'è la crisi, è vero, ma insomma siamo sicuri che un laureato in scienze delle comunicazioni anche in un periodo non di crisi abbia opportunità di lavoro? Forse è meglio cambiare l'impostazione generale. Sono tendenze di lungo periodo, la crisi c'entra e non c'entra, c'entra insomma. E non come c'entra. Lei ha detto, poi ricerche di questo genere, dati statistici di questo genere ce ne sono stati anche nel passato. Infatti. Forse Chiara Saraceno può a questo punto dirci qualcosa, perché lei ha studiato i problemi di mobilità sociale, insomma, come... Innanzitutto va detto che il problema in Italia è che non ci si iscrive tanto all'università, nonostante ci sia stato prima un aumento, adesso ricordava giustamente il Ministro una lieve diminuzione, ma rispetto dell'aumento degli ultimi anni, un aumento, cioè quasi una buona quota dei neo iscritti all'università a genitori che non sono laureati. Quindi c'è stato un fenomeno di mobilità nell'istruzione negli ultimi 10 anni in parte anche favorito dall'introduzione, dalla riforma che si chiama il processo di Bologna, della divisione del curriculum in un primo triennio e poi in un biennio. Quindi il fatto positivo è che c'è stato una crescita dei figli di genitori senza titolo di laurea che invece si sono iscritti all'università. Però il gap rimane molto forte. Il problema, prima ancora che dell'università, è quello della poca mobilità sociale, cioè del fatto che i figli dei non laureati e i figli continuano a iscriversi all'università in numero inferiore, in percentuale inferiore che non i figli dei laureati, e quindi non è colpa innanzitutto dell'università, ma della scuola media superiore, dei processi anche di orientamento, per cui spesso è più facile che a un figlio di non laureati, i cui genitori hanno occupazioni modeste o manuali, insegnanti già dalla scuola media in poi dicono ma tu non sei adatto, invece che incoraggiarlo. Certo. Quindi c'è un fenomeno di riproduzione, mentre è difficilissimo dire anche uno zuccone figlio di laureati che forse è meglio che non faccia il liceo, e invece questa è una indicazione che viene molto, molto, molto presto. Quindi c'è un classismo anche nell'orientamento scolastico e nel modo in cui si sollecitano o non sollecitano i ragazzi. Poi c'è anche il fatto che tra gli iscritti all'università c'è una forte selezione per sesso, per cui ancora ci sono facoltà prevalentemente femminili e prevalentemente maschili, anche se le ragazze sono entrate molto per esempio in medicina, in economia, eccetera, che un tempo erano fondamentalmente maschili, ma se si va a guardare l'origine sociale degli iscritti si vede che c'è una forte concentrazione, paradossalmente, dei figli dei ceti più modesti nei corsi di laurea, meno appetiti sul mercato del lavoro, ma perché sono più brevi, perché sono meno costosi, cioè iscriversi a ingegneria o a medicina è molto costoso. Quindi il problema non è solo degli insegnanti, dei professori che hanno tutte le loro colpe, ma anche di un sistema, in questo caso di una politica dell'istruzione che dà poche borse di studio o le dà troppo miserande, che lascia ancora troppo a carico dei genitori il percorso formativo dei figli, per cui un genitore con pochi mezzi ci pensa due volte prima di, o anche tre, prima di lasciare che il figlio si iscriva all'università, e soprattutto all'università a un curriculum lungo e costoso. Certo. Mi dice iscriviti a Scienze dell'Educazione. Sentiamo se Giorgio Israel ha un punto di vista omogeneo a quello che abbiamo sentito fino adesso o no. Beh, intanto mi permetta di dire una cosa rapidissima a proposito delle scienze della comunicazione, che lei giustamente vorrebbe chiudere con i carabinieri, però bisognerebbe chiudere con i carabinieri l'idea che c'è dietro, e cioè l'idea è che la cultura è comunicazione, tutta la cultura, sì. Un'idea sciagurata a mio avviso, ma sempre più diffusa. Quello che io vorrei osservare è che il vero problema, a mio parere, che troppo spesso si trascura. Ecco, volevo solo spiegare agli ascoltatori il formidabile retroterra di questo giudizio che adesso Israel stava dando su questa idea che la cultura è comunicazione, idea molto astratta peraltro, credo che lei, Ministro, sia d'accordo su questo. Lui ha scritto, Israel, ieri su Messaggero un pezzo magnifico nel quale dice: la retorica, cos'è la retorica? La retorica è l'arte di esporre bene il proprio pensiero in modo convincente, persuasivo, costruito, diciamo, in modo tale da approfondire la conoscenza della realtà. La retorica invece oggi viene considerata una cosa spregevole, no? Negativa, orrenda, un orpello, una cosa, ed è una corruzione, diciamo, del termine, che ci impedisce di vedere invece l'importanza dell'insegnamento come contatto diretto tra la persona del docente e quella degli studenti, degli allievi, dei discenti, costruita intorno alla parola, alla sua magia, alla sua... perché adesso pare che, ma poi ne parleremo, insomma, Di Laghino non solo le dice Israele vecchie lavagne luminose, io non ho mai visto una lavagna luminosa in vita mia, ormai è superata. È superata, ma addirittura le presentazioni multimediali PowerPoint, certo, mediante, sì, il calcolatore, che sono lezioni fatte come fossero con delle slide. Io, sì, ho partecipato a volte, sì, in delle aziende per cui ho lavorato, editoriali. Sono la cosa più noiosa del mondo, tutti in penombra a guardare questi dati freddi, e c'è uno con la bacchetta che li indica e li giudica analiticamente, in modo sempre, appunto, la parola scompare, la retorica non c'è, non c'è il rapporto vero, diciamo, tra un docente e chi dovrebbe apprendere. Chiedo scusa, ma era per, sì, spiegare, sì, questo attacco belluino all'idea di cultura come comunicazione, sì, che abbiamo fatto da complici con Israel. Prego. Io vorrei toccare appunto il problema dei contenuti. Vorrei premettere che proprio come matematico, pensando a un recente rapporto dell'Unione Matematica Internazionale che dice basta a tutte le procedure, le analisi di valutazione dei sistemi dell'istruzione con i numeri, lo dicono i matematici, certo, sono meglio i giudizi ponderati dei numeri. Io vorrei dare qualche impressione qualitativa. Parto da una cosa proprio quasi personale. Io alla fine di questa trasmissione vado a fare lezione, storia della matematica. Bene, io so che se entro e dico una cosa del tipo questo si connette con la cultura illuministica, nessuno sa cosa sia. Quindi o io apro una lezione a parte su cosa è l'illuminismo, oppure sconto un disinteresse, la noia, il fastidio, un atteggiamento quasi urtato nei confronti di una persona che ti sommerge con parole sconosciute. Noi misuriamo un livello di mancanza di conoscenza da parte degli studenti che ci vengono dalle scuole, per cui tutto il sistema dell'istruzione va valutato nel suo complesso, certo, che è realmente drammatico. Mancano i fondamentali, mancano i fondamentali. Noi siamo in ritardo. Io non credo che l'Italia sia... Cioè, sostanzialmente lei vuole dire che alcuni problemi dell'università, la dispersione, la difficoltà, cioè, certo, il fatto che abbiamo il 1900 provengono... Ma vengono addirittura dalle elementari. Bene, 800 2400 24, stiamo parlando della istruzione con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che fra poco ci presenterà anche la sua prossima riforma, che è una riforma che dovrebbe mettere ordine nel modo di reclutare i professori universitari. Ma stiamo parlando di temi. Katia da Pavia, che avrà qualcosa da rimproverarmi perché io ho parlato male delle scienze delle comunicazioni, naturalmente con un elemento paradossale, ne ho parlato male e polemico. E lei, Katia, è docente di scienze delle comunicazioni. Prego, Katia. Buongiorno a tutti. Intanto, buongiorno. Io sono docente a contratto, quindi guadagno, sì, 1200 euro all'anno. Sì, per la mia materia. Lo dice orgogliosamente. Comunque io non la grazierò, Ferrara, perché io sono diventata giornalista anche grazie a lei, molti anni fa. Sono contento. Perché lei lavorava in un giornale molto piccolo, che era Reporter, dove non c'erano, sì, soldi per pagare chi voleva diventare pubblicista. E lei, allora, era il direttore chiese a tutti i giornalisti, compreso lei, che era in redazione, uh-huh, col suo cane, di tirare, sì, fuori 10.000 lire a testa, sì, e di permettere a me di diventarlo, perché lavoravo gratis da due anni. Sono molto contento. Quindi non perché dovrei graziarla. Comunque, scienza della comunicazione a Pavia, che è un'università pubblica, e lo ribadisco perché ci sono molte università private, per esempio lo IUL, la Cattolica, eccetera, certo, che hanno delle rette molto alte. Sono molto contenta che il ministro Gelmini mi ascolti dire questa cosa. Dunque, scienza della comunicazione, le persone che si laureano, per esempio adesso, nelle queste ultime sessioni, perché i primi anni era un po' diverso il corso di studi, sono in grado di fare un sito da soli con il linguaggio Flash, metterci dentro testi scritti da loro come autori, creare dei video facendo le riprese, montandoli con il programma Premiere, oppure mettendoci dentro dei file audio montati con il programma Audition, e poi fare il rendering e mettere tutto quanto sul sito. Quindi, quando le professionalità del futuro sono fatte di persone che sanno fare la parte, diciamo, contenutistica, però anche la parte tecnica è molto importante, però la questione di relazione tra foto, testo, immagine, testo, eccetera. Quindi avere dei professionisti che possono farsi una web TV, dei siti, una web radio da soli completamente, ecco, questi sono i professionisti. Cioè, lei dice è un profilo professionale serio, non si può scherzare. Nuovo. Ecco, quindi profilo professionale che permette a queste persone di fare non solo la parte dei contenuti con senso, ma anche la parte tecnica, e questa cosa non c'era tanti anni fa la parte della laurea in scienza della comunicazione si occupava solo dei contenuti. A Pavia adesso c'è anche questa cosa, stiamo parlando di una professionalità che si acquisisce pagando la normale retta di università pubblica, che certo, non sono 9.000 euro l'anno, cioè, sono 2.000. Certo. E questa è una cosa molto importante da chiarire, credo, perché sennò non si capisce che cosa fanno questi laureati. Va forse bene. Non tutti, ma la maggior parte sono in grado di fare queste cose, li avete anche lì alla Radio 24, fra l'altro in stage, proprio anche da Pavia, proprio perché sanno fare queste cose. Va bene, grazie Katia, grazie del gentile rabbuffo e delle informazioni sulle caratteristiche di un profilo professionale da scienze delle comunicazioni. Sull'altra questione della parola c'è Riccardo da Roma, avevamo parlato prima della retorica. Riccardo, buongiorno, professore, buongiorno, perché è docente però, universitario. Io insegno diritto, sì, in Università del Mezzogiorno, e sì, mi ha particolarmente colpito positivamente che addirittura sia un docente di matematica a rivalutare questo rapporto diretto fra quello che è nell'anima di un docente e quello che possono cogliere gli studenti. Questo perché il fiorire di siti, diciamo di università telematiche, perché noi poi, specie noi di diritto, i siti non li costruiamo, ma forse li cerchiamo nella testa delle persone, sì, no? Sì. E quindi mi rendo conto come forse nei meccanismi di selezione anche la didattica per tutte le materie, ma soprattutto per quelle materie in cui non è una stupidaggine, cioè passando da penale a commerciale a filosofia del diritto, in qualche modo lo studente si resetta. In un'università in cui io vedo i ragazzi soffrono in maniera tremenda, sì, 5, 6, 7 esami a sessione, non c'è più approfondimento, c'è il terrore per i tesisti del fuori corso. Cioè quei 6 mesi che per noi, della nostra generazione, mi permetto, io ho 53 anni, di parlare anche a suo nome, quelli che per noi il fuoricorso era un momento in cui il professore chiedeva qualche mese in più perché puoi fare meglio, sì, puoi essere più importante poi sul mondo del lavoro, puoi scrivere meglio questa tesi. Oggi io ho testimonianze di ragazzi che mi dicono: professore, però la mia famiglia non gliela fa sostenere questi 6 mesi in più. Il sostegno, quindi, sociale all'istruzione è in crisi, questo è un dato dell'economia delle famiglie, sì, insomma. A proposito delle università telematiche, poi arriviamo alla riforma Gelmini dell'università, Salvatore da Roma ha da dire qualcosa, perché ho sentito parlare di università telematiche da Riccardo, dal professore di diritto che ci ha telefonato prima. Salvatore. Sì, buongiorno, sì, approfitto della Gelmini perché... vorrei approfitto della presenza del della presenza, ministro, sì, Gelmini, sì, pardon, approfittare pardon, la Gelmini sarebbe una cattiveria, insomma, brutale. No, il discorso delle telematiche è qualcosa di vergognoso, non ci sono altri termini. Le telematiche sono collegate con dei centri studi universitari, basta vedere le pubblicità, università online più BIP, sono dei centri, sono degli esami fisici, per cui questa necessità di dover per forza far laureare delle persone mi sembra inutile, quando poi facciamo laureare delle persone che sono completamente inconsapevoli di quello che fanno, cioè non sanno nemmeno di essere iscritte all'università. Io parlo da operatore del settore, anch'io lavoro in un centro studi e noi mandiamo degli studenti alle telematiche che fanno esami di diritto, esami di economia, non sanno assolutamente nulla. Vedo che il ministro assente, dunque sentiamolo. Ma in effetti devo dire che le università telematiche erano nate forse con una buona intenzione, cioè con lo scopo di diffondere sempre di più l'istruzione, anche l'istruzione, appunto la formazione universitaria, agevolando gli studenti lavoratori, coloro che non avevano la possibilità di frequentare i corsi. però nel tempo si è oggettivamente verificata, non in tutti i casi, ma in molti, una degenerazione, e quindi sono diventate degli escamotage. Secondo per... la famosa legge per cui se una cosa può degenerare, degenera. E in questo caso è avvenuto. Senta, quindi... Ministro, ci racconti allora, perché questa è anche una storia molto bella, questa dei concorsi. Sì, io però volevo solo fare una piccola riflessione con riferimento ad alcuni punti che hanno toccato alcuni ascoltatori, ma anche la professoressa Saraceno, cioè il tema dell'orientamento e del diritto allo studio, nel senso che se noi vogliamo sconfiggere alcuni mali della scuola e dell'università italiana, dobbiamo riflettere sui nostri errori e poi, come dire, dagli errori trarre anche qualche insegnamento e qualche azione pratica. Certamente nel nostro paese manca un orientamento scolastico che non sia episodico o estemporaneo, ma continuativo nel tempo e che sia rivolto allo studente e anche alla famiglia. Noi su questo stiamo investendo parecchi denari, perché proprio crediamo che per esempio alcune convinzioni, il liceo, il sistema del liceo, un sistema come dire elitario, mentre il sistema dell'istruzione tecnica e professionale è in qualche modo una scuola di serie B. Ecco, è un convincimento che a mio modo di vedere va superato, e lo possiamo fare solo intanto, insisto, collegando la scuola a poi allo sbocco professionale. Allora, è chiaro che il liceo è fatto per chi poi intende proseguire gli studi e conseguire la laurea. Ma l'istruzione tecnica e professionale non va banalizzata o sottovalutata, perché le nostre imprese, il nostro mercato del lavoro necessitano fortemente di profili tecnici, certo, che spesso non esistono, e questo provoca un problema anche di occupazione. Quindi il tema dell'orientamento è importante. E poi un ascoltatore faceva riferimento alla difficoltà delle famiglie nel mantenere i figli allo studio. Questo è un dato vero, ed è dovuto al fatto che noi spendiamo sostanzialmente le stesse risorse degli altri paesi europei, ma le investiamo tutte nell'offerta formativa, cioè noi abbiamo veramente poche residenze universitarie, poche borse di studio, e il tentativo che il governo sta facendo è proprio quello di invertire la tendenza e di spostare le risorse da tanti corsi di laurea, tante sedi distaccate, molte volte inutili, in risorse da dare direttamente alle famiglie più bisognose. E questo lo si può fare per esempio in accordo con i sindaci, se si lavora per calmierare gli affitti, per creare l'ospitalità universitaria. E allora forse è meglio chiudere qualche sede distaccata e invece puntare a finanziare delle residenze che aiutino le famiglie o anche le borse di studio. Benissimo. Noi l'abbiamo fatto per la prima volta stanziando 135 milioni di euro che ci consentiranno di dare una borsa di studio a tutti i ragazzi capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. Quindi l'inversione nell'ottica della spesa è proprio questa. Veniamo alla riforma dell'università. Fino ad oggi si è sempre detto i baroni fanno quello che vogliono, sono nepotisti, i concorsi spesso sono un po' farlocchi, eccetera eccetera. No. E alla fine l'università è governata in un modo non soddisfacente dal punto di vista appunto del reclutamento del corpo docente. Beh, lei vuole introdurre delle novità, ci spieghi quali sono? Ma intanto diciamo che stiamo cominciando a ragionare dei problemi che oggettivi che l'università presenta. C'è stata una fase all'inizio del mandato in cui si è tentato non di dare la colpa ai baroni, poi insomma su questo si potrebbe discutere, ma di dire che tutte le cose che non funzionavano erano legate alla finanziaria del governo Berlusconi, ai tagli sull'università, ai tagli sulla scuola. In realtà poi le bugie hanno un po' le gambe corte, e oggi insomma qualunque ricerca, compreso quella che lei ha citato all'inizio della trasmissione, mette in evidenza che ci sono alcuni problemi. Io non sono per la demonizzazione di tutto il sistema universitario, ci sono università che funzionano, altre che funzionano meno, però nella sostanza credo che un paese che voglia davvero avere fiducia nel futuro e dare opportunità ai giovani non si può accontentare del sistema di formazione che ha, e nemmeno del sistema universitario, e non può limitarsi a difendere lo status quo o alcuni privilegi che oggi le condizioni economiche del paese non consentono più. Quindi io credo che dobbiamo lasciare al passato, lasciarci alle spalle le polemiche e cercare di individuare qualche soluzione. Io non ho mai creduto alla grande riforma che possa, ricominciando da capo, risolvere tutti i problemi. Però c'è un tema fondamentale, che è quello della valutazione, che viene ancora prima della riforma del reclutamento universitario, piuttosto che quello relativo alla gestione delle università. Noi siamo un paese che non ha mai avuto fiducia nella valutazione. Ci sono stati alcuni tentativi. Spieghi cos'è la valutazione in tre parole. Cioè, significa non dare le risorse a pioggia, ma dare risorse in base devi ai risultati raggiunti. Devi sapere quello raggiunti. Che sta succedendo nel sistema dell'istruzione. Esattamente. Devi sapere se i risultati sono buoni o no. Esattamente. E allora, certo. Cosa secondo me è utile? Chi ci ha provato prima di me, per esempio il ministro Berlinguer, devo dire che è stato massacrato sul tema della valutazione. Però io sono convinta che noi dobbiamo ripartire da lì, perché non abbiamo la possibilità. Quindi nemmeno, secondo lei il cuore, diciamo, è la valutazione. È la valutazione. Più ancora che il reclutamento degli insegnanti, sì. Superando il sistema vecchio dei concorsi. Professoressa Saraceno, lei è mai stata valutata? Cioè lei, non solo lei personalmente, ma il suo magari corso di laurea, il suo istituto. La valutazione dei risultati dell'istruzione, anche dell'alta istruzione universitaria, c'è o no? Lei è mai stata valutata? Sì, sì. La prima volta come istituto e come dipartimento, sì, quando ci fu l'esperienza del CIVR, si chiamava così, che è stata la prima esperienza e unica per adesso. E funzionava, la valutazione era ferma. Il problema è che i risultati di questa valutazione non sono stati utilizzati, cioè ci sono stati, e questo è il problema, dall'allora ministro Moratti, devo dire, cioè fummo valutati, vennero fuori anche... situazioni, differenze piuttosto interessanti, poi la cosa poteva essere anche discutibile sul modo, poteva essere perfezionato il sistema, ma sicuramente vennero fuori molto grosse differenze. La scuola è un sistema complicato, bisogna valutare e poi bisogna valutare la valutazione. Il problema è che poi dopo il ministro Moratti decise di redistribuire i soldi esattamente come era stato fatto prima, allora a questo punto che senso ha? La valutazione diventa una perdita di tempo. Sentiamo il professor Israel. Posso però dire un attimo solo, dopo. Israel, la valutazione, lei è stato mai valutato? Sì, sì, ma io mi sono andato a prendere la briga proprio recentemente di vedere i parametri che ho sono perfettamente tranquillo. No, ma non lei personalmente. Sì, certo che sono stato valutato. E poi dopo c'è stato lo stesso fenomeno che denunciava Chiara Saraceno, cioè una valutazione e poi i fondi però restano a pioggia. Certo, sì, ma io vorrei però aggiungere una cosa, vediamo, è fondamentale introdurre la valutazione, vediamo di non fare come accade spesso in Italia, che introduciamo delle metodologie che già all'estero si comincia a capire che non funzionano, per esempio tipo citation index o altro, cioè sono non c'è tempo adesso di spiegarlo con esempi, ma spesso si tratta di sistemi completamente sballati che tra l'altro per esempio distruggono le scienze umanistiche. Quindi attenzione, perché diciamo, anche ai metodi, diciamo, sì, i metodi spesso sono. Il ministro vuole dire qualcosa? No, volevo dire che qualche passo in avanti rispetto alla riforma Moratti è stata compiuta, perché nel decreto sull'università noi abbiamo legato alla valutazione degli effetti, cioè il 7% del fondo di finanziamento ordinario, cioè il fondo di finanziamento statale dell'università, verrà a breve distribuito su base meritocratica, proprio sulla base della qualità della didattica, della ricerca, cerca dei parametri del CIVR, quell'organismo che era stato creato dalla Moratti. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare quel 7%, circa 500 milioni, fino al 25-30%, come avviene negli altri paesi europei. Però occorre, è chiaro, il rischio che evidenzia il professor Israel c'è, però penso che insomma ci si avvicini per passaggi successivi alla via italiana della valutazione. L'importante è partire, non mancheranno errori, ma se noi non leghiamo davvero la distribuzione delle risorse ai risultati raggiunti, continueremo a investire molti soldi in realtà dove non servono inutili, a niente, e poi mancherà il necessario sul diritto allo certo. studio. Chiara Saraceno vuole aggiungere qualcosa, poi volevo sapere notizie della riforma. Sì, prego. CIVR non aveva i criteri quantofenici giustamente denunciati dal mio collega, ma era più una valutazione sul merito fatta da esperti anche internazionali. sul merito delle pubblicazioni, sì, o di altri generi. No, quello che volevo dire, tornando un po' al problema dei nostri mancati laureati, è che c'è anche un problema di mercato del lavoro, cioè l'Italia è uno dei paesi che meno valorizza i laureati, anche per il sistema di imprese che noi abbiamo, per cui è pure una scelta razionale da parte delle questo? Famiglie. Ma perché questo? Perché in parte perché abbiamo un sistema fatto di molte piccolissime imprese, cioè il grosso delle imprese sono di piccole e medie dimensioni, in parte perché abbiamo anche una classe imprenditoriale non moltissimo istruita, quindi complessivamente c'è poco investimento nella ricerca. Quindi il problema nostro è anche questo, che non paga così chiaramente laurearsi. Abbiamo anche i salari di ingresso tra i più bassi, anzi forse i più bassi in Europa, per cui un ingegnere, per prendere una laurea che tira in Italia, ma prende niente per i primi anni, mentre se viene anche solo in Germania, che non è il paradiso, prende immediatamente di più, è trattato meglio, non va da un cocopro a un altro cocopro sempre con 1300 euro come salario, per cui anche su questo bisogna lavorare, non è solo un problema di come funziona la scuola, è anche di come funziona il nostro, certo, mercato del lavoro. Bene, abbiamo pochissimo tempo e lo dedicherei veramente adesso a informare gli ascoltatori su questa questione del come si reclutano i docenti. Sì, noi stiamo lavorando ad una riforma del reclutamento che si pone alcuni obiettivi. Innanzitutto quello di un ricambio generazionale, perché nelle nostre università l'età media dei professori ordinari è molto avanzata, c'è poco spazio per i ricercatori e quindi noi abbiamo la necessità di magari mandare in pensione un po' prima i docenti che hanno una certa anzianità di servizio e invece aprire... Ho visto che aprire... tra gli ordinari c'è solo l'1% sotto sì, i 40 anni, che è un dato francamente... È pazzesco. È pazzesco, sì. E quindi abbiamo la necessità di questo cambio generazionale, ma anche quello di favorire una mobilità, cioè fra le università, e una mobilità appunto dei docenti, perché molto spesso un insegnante, un docente universitario inizia e conclude la propria carriera nella stessa università, non ci sono esperienze all'estero, quando si va all'estero queste esperienze non possono essere poi capitalizzate nel nostro paese, quindi noi vogliamo intanto distinguere fra il concorso e la promozione, perché il concorso deve servire per reclutare nuovi docenti e non essere un escamotage per premiare persone che sono già all'interno dell'università. Credo che occorra maggiore trasparenza, noi siamo intervenuti su concorsi banditi dal precedente governo, non abbiamo potuto intervenire sulla doppia idoneità come io avrei voluto per problemi di ordine di contenzioso che si sarebbe creato, ma abbiamo introdotto il meccanismo per esempio del sorteggio per introdurre proprio maggiore trasparenza nei concorsi, ma il reclutamento è ancora una volta, a mio modo di vedere, legato, deve essere legato alla valutazione. Alla valutazione. Devo chiudere e le faccio una domanda. Lei, sì, ha resistito all'onda. Sì. Resisterà alle pressioni lobbistiche corporative dei professori sicuramente universitari? Sicuramente sì. Siamo sicuri di questo? Ma guarda, io ce non lo ho, promette? Non ho interessi da difendere, sono qui per cercare di cambiare l'università. Grazie al ministro Maria Stella Gelmini, grazie a Giorgio Israel, a Chiara Saraceno, grazie a tutti voi, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini e Peter Bescapè, linea GR, poi Gianluca Nicoletti con Meloc 2.0. A domani.